Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. E buonasera a tutte, bentornate all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Ormai lo sapete, è una trasmissione autogestita dal CLR sugli 87.900 di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico. Questa è la nostra 140esima trasmissione. Lucilla ha cominciato a farsi sentire dall'altra parte del bancone. E appunto, come avete buonasera. Sentito. Buonasera. È Lucilla che dopo i bagordi di Pasqua si intromette così. Quindi, come si è ben capito, non c'è Lucilla stasera, però in compenso c'è Caterina che ci farà la tecnica. E ci sono io, Rosina, e vabbè, c'è pure Lucilla, anche se non si capiva bene. Sì, si è capito subito dal rumore. Allora, Lucilla, che hai fatto in questi giorni di Pasqua laica? Dunque, di Pasqua laica sono stata in giro. Ho fatto un bel giretto, mi sono divertita e adesso sono qui con te. Dove basta, il tuo tempo a disposizione è finito. A sostenerti, dato che The Voice, la tua voce stasera, non è delle migliori. Fa cilecca un po', eh? Fa un po' cilecca, sì. Mi sembra di essere d'accordo. Vai, Regina. Assolutamente no. Allora, benissimo, prima di partire, intanto vi ricordiamo il modo in cui potete contattarci qui in radio. Naturalmente potete farlo telefonando allo 06 49 17 50, ve lo ripeto, 06 49 17 50, oppure ci potete inviare un SMS. SMS. Lo dico io, un SMS. No, ma MS mi ricorda un qualcosa di brutto. No. Vabbè, un SMS, uno SMS. Un messaggio. Al messaggio. 338-41. Aspetta, faccio la traduzione in simultanea. Dicevi un messaggio. Un messaggio. No, perché fa un po' l'orso yogi oggi. Queste due sono due cagnelle. Allora, vi ricordo il numero 338-41-46682, ve lo ripeto, 338-41-46682. E adesso, prima di cominciare, vi facciamo sentire qualche bella canzone che ha scelto naturalmente Caterina. Sì, è una canzone cantata da Anna Oxa, cosa è una cantante che a me non piace assolutamente, però devo dire che in questa canzone merita. Perché non si sente? Non si sente? Va bene, non faccio sentire Anna Oxa. Va bene, rimandiamo Annie Lennox un attimo, io. Va bene. Giusto. Le apparecchiature si rifiutano. Visto che a Nokia questo CD non gli piaceva, metto un'altra che a me piace, spero di di essere un pochettino più fortunata, anche perché si tratta di Melissa Etheridge con il brano Your Little Secret. Sul mirabile, oserei dire, urlo della Etheridge, ritorniamo qui, ci scuserete per questo piccolo problema iniziale. Questo naturalmente ci contraddistingue. Dunque, stasera che cosa facciamo? Oltre a parlare di abbacchio e di uova pasquali, vedo che la mia proposta... Di polli, eccetera, eccetera. La mia proposta è caduta nel silenzio. Mi dispiace aver detto questa cosa proprio ora che stiamo per introdurre una figura molto importante per il movimento femminista e lesbico. Stasera parleremo molto en passant, a dire il vero, di Adrienne Rich, appunto una scrittrice, una saggista e poeta americana, e in particolare leggeremo alcune poesie da una sua raccolta che si chiama Esplorando il relitto. Allora, che dire della Rich? Caterina, che diciamo della Rich? Ha scritto un libro che per me è stato illuminante, che lessi un sacco di tempo fa, che è Segreti, Silenzi e Bugie, che io consiglio veramente a tutte. Li consigliamo candidamente. Candidamente e clamorosamente. Consigliamo anche l'altro saggio che per noi è illuminante, è l'ABC, e che è eterosessualità. Il sussidiario dei piccoli. Esatto, ed è Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, pubblicato sul DWF Nero. Poi ha scritto altri libri, Nato di donna, eccetera, eccetera. Non stiamo qui a parlare della saggistica, stiamo qui a parlare, così come ha voluto The Voice, la vera voce, stiamo qui a parlare della poesia della sua attività di poeta. Nella sua attività di poeta, che però insomma, è collegata alla sua attività politica, insomma, naturalmente, le poesie sono naturalmente delle poesie significative. Certamente. Allora, dunque, la Rich, Caterina, intanto si sganascia dalle risate. Caterina, sono arrivati dei messaggi. Facciamo tutti degli sforzi per essere intellettuali, per parlare di poesia, far conoscere le poetesse che ci hanno preceduto. È arrivato adesso un messaggio, io ve lo devo leggere perché è troppo carino. Perché dice: ciao Gioia, sono innamorata di una splendida etero. Che faccio? Mi ammazzo subito oppure mi mettete una bella canzone che mi tira su e mi incoraggia? Potrei dire la prima che hai detto, ma è meglio che dica la seconda. Che vabbè, hai detto? La canzone la mettiamo dopo, sicuramente però, cioè, non t'ammazza ma lascia perde. Noi non te lo consigliamo un intreccio del genere, però tu fai quello che vuoi. Allora, eccoci qua. Dunque, la Rich cominciò la sua carriera di poeta piuttosto lontano nel tempo, nel 51, quando noi eravamo appena una idea nella mente della dea, che fa pure rima. Esatto. Dunque, lei cominciò molto molto presto con una raccolta che si chiamava A Change of World, che era tutto un programma, un cambio di mondo, un cambiamento di mondo. Mentre invece più tardi, nel 63, pubblicò il volume L'istantanea di una nuora, titolo molto significativo, molto, secondo, carino. Molto carino, in cui adottava praticamente il verso libero e la tecnica fotografica per esprimere appunto questo suo concetto base della sua poesia, per cui l'autore, in questo caso l'autrice, l'artista, era ed è un osservatore della realtà frammentaria che lo circonda. Quelli erano gli anni in cui, tra l'altro, nasceva il movimento femminista in America, che avrebbe poi portato alla fondazione del NAU, e c'era anche la guerra del Vietnam. Proprio in quegli anni la Rich fece parte di moltissimi di questi gruppi che appunto osteggiavano la politica guerra fondaia estera degli Stati Uniti. E nelle poesie di quegli anni, appunto, la Rich cerca di stabilire un rapporto personale e politico con il pubblico, che è poi un motivo ricorrente della poesia femminista. Ad esempio, nel 74 Nadia Fusini scriveva della poesia femminista che attraverso l'interiorità la donna ricostruisce un discorso politico, perché l'interiorità è segnata dallo squilibrio e dalla oppressione. E guarda caso, pochi mesi prima, invece, in una intervista, la Rich aveva detto: credo che il femminismo sia il luogo dove devono confluire soggettività e politica nel modo più culturale ed organico. Non vedo come una femminista possa procedere altro che da un collegamento fra l'interiorità e l'esteriorità. Stiamo cercando di risolvere la frammentazione fra l'interiore e l'esteriore in ogni campo. E questo si è, diciamo, poi ripercosso nella raccolta successiva del 1971, La volontà, che si chiamava La volontà di cambiare, e che appunto segnava una ricerca di una nuova identità, una rottura con il vecchio linguaggio poetico, tramite l'espressione del rifiuto dei codici estranei che tendeva appunto a scardinare l'ordine patriarcale. Qui Lucilla potrebbe dire una infinità di cose, ma ci grazierà e non dirà alcunché. No, assolutamente niente, io sto qui che pendo dalle tue labbra, perché stai dicendo delle cose splendide. Ti ringrazio, grazie, non è farina il mio sacco, purtroppo. Allora, dunque, nel 1968 la Rich scriveva: sto pensando a come possiamo usare ciò che abbiamo per inventare quello di cui abbiamo bisogno. E ancora successivamente in Planetarium: sono uno strumento a forma di donna che cerca di tradurre le pulsazioni in immagini per il sollievo del corpo e la ricostruzione della mente. Hai detto niente? Te pare niente, te pare? Nel 74 parlava appunto della creazione di una poesia del futuro, capace di esprimere o una visione tutta femminile o una visione bisessuale, una celebrazione quindi di una visione androgina, di un nuovo modo di essere uomini e di essere donne. Questa nuova poesia poteva nascere soltanto da un cambiamento dell'inconscio collettivo, secondo la Ricci, che derivava appunto da una motivazione politica, quella del femminismo, ed in particolare del femminismo lesbico. E la femminista lesbica, secondo la Ricci, cerca di riunirsi al principio femminile, quindi rifiuta i ruoli culturali e sessuali, pur naturalmente riconoscendosi nel suo destino biologico, considera la società malata di intransigenza eterosessuale, Lucilla non saltare sulla sedia, e cerca di porre fine al dualismo sessuale. E qui appunto recitiamo lo splendido saggio di cui prima ci ha accennato Lucilla. In Silenzi, segreti e bugie, la Ricci scrive: è cruciale dare il significato più profondamente radicale al lesbismo-femminismo. Quell'amore per noi stesse e le altre donne, quella dedizione alla libertà di tutti che trascende la categoria preferenza sessuale e la questione dei diritti civili, per diventare la politica di porre le domande delle donne, di richiedere un mondo migliore nel quale l'integrità di tutte le donne, non soltanto di alcune privilegiate, sia onorata e stimata in ogni aspetto della cultura. Per lei, che appunto si considerava socialista, il socialismo non risolverà i problemi della donna, fin tanto che sessismo, misoginia e patriarcato saranno alla radice di tutto. Per questo è necessario distruggere i rapporti di potere fra i sessi. Oh, in Esplorando il relitto, che è appunto l'opera da cui stasera vi leggeremo alcune poesie della Ricci, la Ricci appunto propone come modello politico la ricerca di una identità androgina attraverso la rottura degli schemi patriarcali. E questo libro è uscito in America nel 1973 ed è stato tradotto da Liana Borghi nel 79, quindi come vedete stiamo parlando di cose datate, ma non troppo, attenzione. E devo dire che ormai è quasi introvabile questo. Però questo noi contesto. Abbiamo alcune copie. Noi ne abbiamo alcune copie. Mm-hmm. E questa copia me l'ha regalata la mia ex fidanzata. Mm-hmm. Io invece carino. Me la sono acquistata la mia copia. Perché vabbè, nel 79 Lucilla andava in libreria e comprava le cose. Mentre nel 79 ero ancora creatura, andavo a giocare al parco. Esatto, e questa è la situazione. Però mentre io sono una persona datata, perché sono nata a un certo punto, c'è Rosina che è datata da dentro. È una giurassica distinto. È una giurassica distinto. E oltretutto, sono una giurassica anche distinta, perché si sa che la mia eleganza, certo, esatto. È sempre diversamente distinta. Okay. C'è la distinta alla cassa. Allora, dunque, questo libro, Esplorando il relitto, si compone di 25 poesie che rappresentano non singoli pezzi, ma una sequenza poetica e una struttura unitaria che si divide in 4 sezioni. E tutte le poesie hanno come tema generico l'alienazione, l'emarginazione e la diversità dell'individuo nel mondo moderno, e nello specifico invece trattano la condizione della donna nel patriarcato. Il discorso ideologico nasce dalle esperienze del soggetto narrante. Una donna che prende coscienza di sé, della propria condizione, che passa dalla passività all'aperto dissenso, affermando prima una coscienza androgina, poi trasformando la rabbia in odio di sé, integrando coscienza e rabbia fino a identificarsi con le vittime della violenza maschile, infine riconoscendo ed affrontando il condizionamento patriarcale alla radice di questa violenza. E secondo Liana Borghi, con le poesie della Ricci ci troviamo di fronte al recupero linguistico di una identità androgina. E ciò avviene perché la parola è resa oggetto e soggetto insieme della ricerca di identità, quindi diventa l'io sommerso da recuperare all'inconscio, la presenza che la storia ha negato alla donna e la testimonianza dei rapporti molteplici che strutturano l'esistenza. E proprio a questo proposito direi che Lucilla ci può leggere questa poesia solo dopo un breve stacco musicale. Sì, avete ragione, mi sono lasciata prendere. Ha preso la rincorsa e non siamo riusciti a togliere la parola. E meno male che The Voice stasera sta messa male con raffreddore. Il mio problema è proprio questo: che ho cominciato a parlare senza respirare praticamente. Quindi se mi fermo, sono finita. Vado in apnea. Comunque, adesso andrà un pezzo musicale, poi incominceremo a leggere delle poesie. Sì, avevo scelto anche per accontentare l'ascoltatrice che ci ha mandato l'SMS. I Need You di Liam Rames. Ok, e poi leggeremo questa parte. Dopo che sono stata bacchettata, lascio la parola a Lucilla, che appunto ci leggerà questa poesia della Rich che si intitola L'Estranea del 1972. Bene, e L'Estranea. Guardando, come ho fatto altre volte, giù dritto nel cuore della strada fino al fiume, camminando lungo i fiumi dei viali, sentendo il fremito delle caverne sotto l'asfalto, osservando le luci accendersi nelle torri, camminando, come ho fatto altre volte, come un uomo, come una donna, nella città. Una rabbia visionaria mi rischiara la vita, la vista, e dettagliate percezioni di misericordia fioriscono da quella rabbia. Se dalla luce forte della nebbia entro in una stanza e lì sento parlare una lingua morta, se mi chiedono la mia identità, cosa posso dire se non... Io sono l'androgino, io sono la mente viva che non sapete descrivere nella vostra lingua morta, il nome perduto, il verbo che sopravvive solo all'infinito. Le lettere del mio nome sono scritte sotto le palpebre del bambino appena nato. tutta conturbata dall'esposizione vocale di Lucilla, veramente straordinaria. Ma io non sono che The Voice number 3. Perché la number 1 è Caterina e lo sappiamo. La number 2 sarebbe sto ciù, oppure sporca il microfono. E naturalmente Rosina, che stasera sta in palla. Io so la number 3, comunque, sempre sputando sul microfono. L'ha detto in calabrese, Ovid. 1, 2, 3, quaccio. Quaccio. Quaccio. Kinder, mi raccomando. Allora, come si è capito naturalmente dall'estranea, da questa poesia della Rich, appunto l'estranea è l'androgina che rifiuta il condizionamento patriarcale e sa di avere scelto con la diversità l'emarginazione e la solitudine. Però attenzione, si tratta di una solitudine scelta, non è una rinuncia, e questo lo si capisce anche dall'altra poesia che Lucilla ci leggerà. Puoi dire anche magistralmente. Magistralmente, naturalmente, questa poesia che si intitola Canzone ed è posta in sequenza all'estranea, quindi nella sequenza del testo, però è stata scritta anche invece l'anno precedente, quindi nel 1971. Ma il percorso delle donne è un percorso anche, allora poi si definiva così, a spirale, e quindi è contestuale questa scelta che Rich fa. E allora, la prossima poesia, mi dispiace, a parte gli scherzetti che ci facciamo tra noi di leggerle così male, però dovete beccare me. Ok, quindi canzone. Ti domandi se mi sento sola. Ok, allora sì, mi sento sola. Come un aereo vola solo e orizzontale sulla sua onda radio, puntando oltre le montagne rocciose verso le piane recinte di blu di un aeroporto sull'oceano. Mi vuoi chiedere, mi sento sola? Bene, certo, sola. Come una donna che attraversa il paese gridando giorno dopo giorno, lasciandosi dietro miglio dopo miglio piccole città che avrebbero potuto fermarsi e vivere e morire da sola. Se mi sento sola, deve essere la solitudine di svegliarsi per prima, di respirare il primo respiro freddo dell'alba sulla città, di essere l'unica che è sveglia in una casa avvolta nel sonno. Se mi sento sola, è come la barca chiusa nel ghiaccio della riva, nell'ultima luce rossa dell'anno, che sa che cos'è, che sa che non è ghiaccio, né fango, né luce d'inverno, ma legno, con quel dono di poter bruciare. Bellissimo. Che dire, Lucilla ha superato se stessa, devo dire, davvero in questa occasione. Non dico dove mi tengono le mani, perché l'ha presa in giro detta in un'altra forma. Va no, bene. No, hai letto benissimo, mi è piaciuta molto. Brava, molto molto brava. Dunque, ci resta il tempo per leggere l'ultima sicuramente poesia? Sicuramente sì, io però darei un altro pezzo musicale. Sì, io prontissima, vedi, sono prontissima. Sì, prontissima. Caterina è in bambolè stasera. Allora, sono un po' addormentata. Alain Morissette con il brano Hands Clean. Mamma mia, come pronuncia bene. Non so assolutamente quello che dico, però. Control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Die. properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Allora, l'ultima poesia che vi leggeremo è quella che nell'originale americano dà il titolo al libro, letteralmente A tuffo nel relitto, e qui naturalmente l'immersione nell'acqua è una metafora della ricerca di identità che culmina appunto con la integrazione del leo androgeno sul fondo marino. E Lucilla ce la farà ascoltare magistralmente, come sempre. Sì, magistralmente si va per dire, va bene. È una poesia molto difficile, abbiate pietà. Abbiate pietà, d'accordo. Allora, A tuffo nel relitto. Avendo prima letto il libro dei miti e caricato la macchina fotografica e tastato la lama del coltello, ne misi l'armatura di gomma nera, le pinne assurde, la maschera seria e ingombrante. Mi tocca far questo. Non come Cousteau con la sua equipa assidua a bordo della goletta inondata di sole, ma qui da sola. C'è una scala. La scala c'è sempre, pende innocente al fianco della goletta. Sappiamo a che serve noi che l'abbiamo usata. Altrimenti è un pezzo di filamento marino, un attrezzo qualsiasi. Scendo. Piolo dopo piolo e ancora l'ossigeno mi immerge, la luce azzurra, gli atomi chiari della nostra aria umana. Scendo. Le pinne mi paralizzano, striscio come un insetto giù per la scala e non c'è nessuno a dirmi quando l'oceano comincia. Prima l'aria azzurra, e poi più azzurra, e poi verde, e poi nera. Vedo tutto nero. Eppure ho la maschera, è buona, pompa forza nel mio sangue. Il mare è un'altra storia. Il mare non è questione di forza, devo imparare da sola a muovere il corpo senza sforzo nel profondo dell'elemento. E ora è facile dimenticare perché sono venuta in mezzo a chi è sempre vissuto qui, agitando ventagli smerlati tra le scogliere, e inoltre si respira in modo diverso qua giù. Sono venuta ad esplorare il relitto. Le parole sono propositi, le parole sono mappe. Sono venuta a vedere il danno che è stato fatto e i tesori che sono rimasti. Carezzo il raggio della mia lampada lentamente lungo il fianco di qualcosa più duraturo di pesce delle alghe. O le alghe. La cosa per cui venni, il relitto, e non la storia del relitto, la cosa stessa, e non il mito, il volto annegato che sempre guarda verso il sole, la prova del danno, erosa dal sale e dai flutti a questa bellezza consunta, le costole del disastro che curvano la loro asserzione tra i cauti fantasmi. Questo è il posto, e sono qui. La sirena, i suoi capelli scuri fluttuano neri, il tritone dal corpo corazzato. Giriamo in silenzio attorno al relitto. Ci tuffiamo nella stiva. Io sono lei. Io sono lui. Il cui volto annegato dorme a occhi aperti, i cui segni ancora portano il peso, il cui carico d'argento, rame, vermel giace oscuro nei barili, semi incastrati e lasciati a marcire. Noi siamo gli strumenti semidistrutti, che un tempo tennero la rotta. Il solcometro corroso dall'acqua, la bussola impazzita. Siamo, sono, sei, per viltà o per coraggio, quell'uno che torna sempre a questa scena, portando un coltello, una macchina fotografica, un libro di miti nel quale i nostri giorni compaiono. Allora, dopo così tante belle poesie, corre l'obbligo ricordare che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno del martedì femminista e lesbico sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che avete due possibilità per sentirci tramite internet se non siete a Roma, e sono quella di andare sul sito ufficiale di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info, oppure sul sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta e praticamente andate subito ad ascoltare quello che stiamo dicendo. A tal proposito ricordiamo tutte le ascoltatrici che ci hanno mandato dei messaggi da Milano, da Brescia, da Bari, da Caserta e da Catania ultimamente. Ciao compagne, ciao amiche. Ringraziamo anche le ragazze che ci hanno mandato gli sms, ricordo di nuovo il numero che è 338-4146-682. Saluto Francesca che mi sta tempestando di messaggini. Ringraziamo anche Silvia che ci ha fatto una proposta, alla e quale preghiamo, una proposta, esatto, alla quale di che tipo? Diciamo, no, non una proposta, cioè una detta proposta così, di lavoro, ecco, diciamo così. E le diciamo di venirci a trovare per discuterne meglio, magari in sede, e ampliarla un certo. pochettino in maniera più dettagliata. Noi siamo pronti ad accettare sempre tutti i suggerimenti, lo sapete, quindi chiunque abbia delle notizie o delle iniziative o delle ipotesi di lavoro da fare può anche scriverci un'email che al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatticlrbp.it, oppure può mandarci un fax o lasciarci un messaggio nella nostra segreteria telefonica allo 06 68 64 201. Venirci a trovare il mercoledì sera, esatto, brava, in via San Francesco di Sales 1B. Ok, poi non abbiamo Andrea di André. Sì, ringraziamo anche Antonello che ci ha mandato un saluto, lo ringraziamo veramente, ma noi abbiamo fatto una scelta, quella di occupare il tempo musicale a nostra disposizione con canzoni di donne, per cui ringraziamo il suggerimento, ma non ce l'abbiamo Andrea di André. Comunque una bella canzone, hai ragione. Appuntamenti. E allora eccoci qua alla consueta pagina degli appuntamenti, appunto come si evince dalla nostra sigla che Caterina prontamente ha inserito al momento giusto. E dunque abbiamo diverse notizie per questo mese, per i mesi futuri, e cominciamo direi da una notizia di teatro, una rassegna di teatro lesbico che si terrà a Pisa, già si sta tenendo, naturalmente è cominciata a marzo e arriverà fino a giugno 2004. e organizzata da Les Teatro, un gruppo lesbico pisano nato appunto in occasione del Pride Toscana del 2004. E appunto questo gruppo organizza una rassegna di teatro lesbico che prevede l'allestimento di vari spettacoli da marzo a giugno appunto, e che culminerà con alcune rappresentazioni nel Polispazio Queer a Firenze nel weekend del 5 e 6 giugno. Dopo le quattro rassegne che si sono svolte a Milano nel 97 e nel 2001 e a Padova nel 98 e nel 2000, si può dire che il teatro lesbico sia una scusate una realtà che ormai ha raggiunto una certa qualità e che di anno in anno cresce e produce nuovi spettacoli. La rassegna pisana si propone la diffusione di lavori teatrali di artiste note e la produzione di spettacoli di artiste invece nuove. Tra le artiste già note che saranno presenti segnaliamo naturalmente Paola Cavallin, Eleonora Dall'Ovo, Elena Rossi e Angela Soldani. Con le ultime tre abbiamo avuto il piacere di lavorare, ne abbiamo avute ospiti al CFS. Speriamo di riaverle presto, le riavremo prestissimo. E ancora Paola Sambo, Gloria Sapio, Luisa Sachs e tra le nuove protagoniste Barbara Fragoglia, Carla Catena, Maria Teresa Fontù e Milly Toia. Dunque i circuiti teatrali attraverso cui il teatro lesbico si diffonde sono ancora piuttosto limitati, confinati agli spazi della comunità lesbica e omosessuale. La rassegna pisana si pone l'obiettivo di uscire dal circuito omosessuale e rendere il teatro lesbico visibile in altri ambiti e altri luoghi e fruibile da un pubblico non esclusivamente lesbico e gay, in modo da contaminare il teatro eterosessista, così ci dicono le compagne dell'Est Teatro. E la rassegna pisana inoltre ci farà sapere, allo scopo di stimolare una riflessione all'interno della comunità sulle pratiche, i linguaggi, le tecniche del teatro lesbico che contribuisca ulteriormente al suo sviluppo. E qui dicevo, sfondano una porta aperta, nel senso che siamo sempre aperte alla discussione e alla polemica. Allora, se vogliamo era lo spezzettamento che non avevo intuito subito. Allora, se vogliamo poi dire quali sono le date di questa rassegna, per chi è interessata poi potrà anche contattarci. Con quello di marzo con Eleonora Dall'Ovo c'è già stato ed è Sogno di una notte di mezz'estate con intermezzo lesbico. Noi speriamo di riuscire ad avere Eleonora a giugno da noi, presso la Casa Internazionale delle Donne, quindi questo lo recuperiamo. Il 4 aprile, anche questo è stato già dato, ed era una delle Carla Benvenuti, Angela Soldani e Monica Petracci che facevano Metamorfeica, cabaret, lettura di poesie erotiche e video Vieni. Il 2 maggio invece ci sarà Angela Soldani con la Batongheide che abbiamo già avuto presso di noi e Luisa Sachs con poesie ludiche e impudiche. Oh, e questo sarà al San Bernardo. L'8 maggio Carla Catena, Prendimi come sono, a Leopolda. Il 29 maggio Milly Toia, Edipo e la sua mamma, all'Agorà. Maggio-giugno liberamente, Psicosi 4x48 e Barbara Nativi, Crame. E poi a giugno ci saranno quelle due date vicine, che avevamo detto il 5 e il 6 giugno, e sarà Maria Teresa Funtò, Paola Sambo, Gloria Sapio, Angela Soldani e Angela Soldani per ben due volte con l'annuncio e la governante, mentre le altre due una leggerà poesie e la Paola Sambo farà Dos Lesbos. Poi il 29 giugno ci sarà Paola Cavallin. Quindi pensiamo di avervi letto insomma, le artiste sono ben impegnate. E quindi quando sarete interessate ad avere maggiori informazioni ci potrete contattare. You don't have to listen. Allora continuiamo, ci sarà molto molto presto una iniziativa di, delle compagne di Fuoricampo, purtroppo a Bologna. Purtroppo non siamo in grado né di darvi il giorno né di specificarvi esattamente che cosa accadrà, se non che ci sarà una rappresentazione teatrale che si chiamerà Le Talente, e purtroppo la mail ci è arrivata un pochino distorta a me, alla mia persona. No, da quanto mi ricordo era hanno tenuto loro un corso di teatro, sì, e poi si esibiranno tutte le partecipanti al corso. Era un po' come Donne allo sbaraglio che si faceva a Roma tanto tempo fa, insomma saranno cose inedite, dovrebbe essere molto carino, poi magari la settimana prossima diamo i dettagli. Certamente, daremo tutti i dettagli. E quindi andiamo avanti dal 10 aprile, dal 22 al 29 aprile a Torino ci sarà il 19° Festival Internazionale di Film a tematica omosessuale da Sodoma e Gomorra, che si terrà presso la Multisala Teatro Nuovo a Corso Massimo d'Azeglio. E ci sarà una sezione internazionale, lungometraggi, cortometraggi, video, documentari, una sezione non competitiva per opere di nuovi autori, di recente produzione, e una retrospettiva e diversi tributi ed omaggi. E ci sarà anche, ed è una novità quest'anno, una sezione dedicata al cinema asiatico con pellicole che vengono direttamente dal Jakarta International Gay and Lesbian Film Festival. Per informazioni potete contattare il sito info@tglff.com oppure visitare il sito www.tglff.com. Invece a Trevi, sul Criturno, presso il Dedalo Spazio Arte in via Ciuffelli 12, dal 10 aprile al 9 maggio si terrà la mostra Matriarcato, il ritorno della Grande Madre. Parteciperanno le artiste Claudia Andreani, Petra Bialas, Carla Boccolini, Sar Brad Pierce, Francesca Capitini, Andrea De Cavallo, Licia Galizia, Francesca Grego, Elfrida Gubbini, Lucia Minervini, Felicitas Nussellain, Maria Luisa Orsini, Maria Teresa Romitelli, Rosita Rossi, Virginia Ryan, Vera Tamburini, Christian Ten Half, Patricia Williams e Antonella Zazzera. Nel corso dell'inaugurazione, sabato 10 aprile alle ore 18, si svolgerà la coreografia di Benedetta Mazzotti, Arianna De Angelis e Sara Libori, Donne che corrono con i lupi. Per informazioni info@associazionecontemporanea.org. E invece dal 22 al 29 agosto ritorneranno, per la gioia di grandi e piccine, le Desiderande con la nona edizione della Vacanza in Masseria. Ok, e ricordatevi invece che il giorno 23, prossimo 21 in aprile, tenetevi libere, sarà un venerdì e ci sarà il nostro appuntamento mensile, che si intitola questa volta, ed è tutto un programma insieme, 1, 2, 3, Flamenco, che passione! Cioè, una sorpresona, venite, oltre alla cena, che sarà a tema spagnolita, la cena, avremo poi qualcosa che vi farà andare in visibilio, andare in brodo di giuggiole. Giuggiolos. Oh, io per finire volevo un attimino ringraziare, elencandole se riesco ad aprirle, i messaggi. Allora ringrazio la Tempesta Francesca, poi Silvia, Antonello, M Puntato e C Puntata, sono queste che hanno mandato dei messaggi. Benissimo. Quindi grazie. E scusate ancora invece, sempre per appuntamenti, giovedì 15 aprile alle ore 18:30 ci sarà la Sinistra Giovanile Editore Annunziata Napoli organizza un PAX Avanti, campagna nazionale per l'approvazione di una legge sul patto civile di solidarietà con Franco Grillini, e ci saranno presenti vari. E poi invece venerdì 16 aprile, Liberi di Scegliere, Liberi di Amare, iniziativa a sostegno del patto civile di solidarietà, incontro con Imma Battaglia, portavoce del World Pride 2000, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa si terrà alla sala del Consiglio di Circoscrizione di Soccavo, piazza Giovanni XXIII. Auguri. Abbiamo finito? Mandiamo un brano e... Sì. E non sbattere i fogli, che io sono la cuffia. L'appuntamento al prossimo martedì, dove però verrà bacchettata selvaggiamente sulle mani Rosina, che oltre ad avere la voce alterata dal raffreddore sbatte i fogli sulla console e fa dei rumori allucinanti. Sulla console? Sul tavolo. Io cerco di fare la raffinata, faccio la splendida, ho letto le poesie, eccetera, eccetera. Si è montata la testa sta ragazza. Ti dirò quello che generalmente dico alla mia sorella di latte, Lorella. Tu non hai un certo modo di portare l'eleganza, ergo sei una sciattona e va bene pure per te. Capisci? No, ma il problema di tutte è che io ho le cuffie, io vorrei spiegare a Rosina, non è che mi dà fastidio il rumore dei fogli sul tavolo. Mi dà fastidio proprio Rosina. È che viene rimbombato nelle cuffie, capito? Lo sai che non sono tecnologica. Allora, io per concludere questa splendida puntata volevo mettere Toni Braxton con Breathe Again. E allora intanto vi salutiamo, esatto. Al prossimo martedì che andrà in replica, chiaramente. Io sono Lucilla, la voce questa volta è stata la voice number 2, ha guadagnato qualche posto con la lettura. Se volete sms per dire che la mia voce è splendida, potete farlo. Ciao. Ho spento il telefonino. Ciao e grazie per essere state con noi. Ciao, a martedì prossimo. Allora, Toni Braxton. Messaggio in codice per quell'ascoltatrice che mi ha posto una domanda diretta, la mia risposta è sì. Ciao. Conto a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Something's got a hold on me.